Allora, questa è comunicazione multimediale, terza lezione del giorno. Che giorno sarà? 20? 19, come siamo messi bene? 19, quest'anno forse faremo tutte le ore. Allora, sulla questione dell'immagine non farò tutta questa manfrina e questa lunga parte che farò sul linguaggio, ma perché? Per una serie di motivi, insomma, è che gli studi sul linguaggio sono più saldamente stabiliti ormai che non quelli sull'immagine. Quelli sull'immagine sono, sia quelli sul linguaggio che quelli sull'immagine, ovviamente sono molto vecchi, ma insomma... ci leggeremo pure qualcosina di Platone o di Aristotele, eccetera, ma non avrebbe senso oggi né sul tema del linguaggio né sul tema dell'immagine andare a prendere dei testi così antichi come guida, nel senso di utilizzare quei sistemi concettuali andandoli a scalpellare fino in fondo, andando a vedere tutto. Ovviamente per quello che questi antichi filosofi ci hanno detto di interessante, quello che è stato giudicato soprattutto interessante dai commentatori successivi, insomma, no? E quindi, ma insomma, in qualche maniera, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, il linguaggio, in gran parte anche per quanto riguarda l'immagine, ma diciamo di più per quanto riguarda il linguaggio, c'è una svolta evidentemente negli studi sul linguaggio che riguarda sia quella che si chiama tradizionalmente linguistica, quindi lo studio, diciamo, specifico dei sistemi linguistici. Ragazzi, evitiamo di, quando parliamo di linguaggio, di metterci davanti il sistema di comunicazione, perché come ho cercato di spiegare le volte scorse, il linguaggio non è prevalentemente un sistema di comunicazione più di quanto non sia un sistema di espressione, anche se è molto, diciamo, complesso. La sua principale funzione probabilmente non è tanto quella di comunicare, anche perché da un punto di vista... Se ci pensiamo bene, da un punto di vista letterale del termine comunicare, il linguaggio comunica ben poco. Che cosa mette in comune il linguaggio? Mette, come dire, in comune delle caratteristiche, diciamo, generiche, generali, del linguaggio. Io che vi sto parlando adesso, probabilmente la cosa principale che sto mettendo in comune è qualcosa di analogo a quello che sarebbe messo in comune da un testo scritto che dicesse più o meno le cose che io dico adesso. E un testo scritto già sappiamo che non è propriamente, insomma, è una pratica linguistica, certo, però diciamo non è il paradigma delle pratiche linguistiche. Cioè, il linguaggio è primariamente un fenomeno di produzione orale, poi la scrittura viene dopo. Quindi l'aspetto comunicativo di questo del linguaggio è, non che non ci sia, ma insomma è perlomeno discutibile, insomma, ma noi abbiamo l'uso che si fa ormai del termine comunicazione, già comunicazione, cioè si comunica, in realtà non è che si comunica molto. Allora, diciamo, gli studi sul linguaggio, sia dal punto di vista della linguistica che dal punto di vista di quella che si chiama, che si tenderebbe a invece chiamare con un altro termine un po' più specifico, chiamiamolo filosofia del linguaggio, che non è propriamente la stessa cosa della linguistica. In entrambi i casi, sia gli studi di linguistica che gli studi di filosofia del linguaggio conobbero una svolta radicale e nel caso della linguistica, sicuramente l'emergere di un nuovo paradigma nei primi anni del secolo scorso, nei primissimi anni del secolo scorso, e pochi anni dopo ad opera di questo signore svizzero che si chiamava Ferdinand de Saussure. Pochi anni vuol dire poco più di 10 anni dopo, poco più di 10 anni dopo la effettiva produzione di questo, diciamo, signore, ma adesso vedremo perché, ma contemporaneamente invece a quando gli scritti di Saussure venivano resi noti, dopo, parecchi anni dopo la sua morte, diciamo nel campo che possiamo chiamare della filosofia del linguaggio veniva fuori un'altra persona da un'altra area linguistica. Saussure era uno svizzero di lingua francese, quindi parlava, era un francofono, ha insegnato per tutta la vita quasi a Ginevra, credo, forse anche a Losanna, non mi ricordo bene, comunque Ginevra è la cosa. Invece un'altra persona, un personaggio nato a Vienna, ma che poi visse per gran parte del tempo in Inghilterra e scrisse però quasi tutte le sue opere in tedesco, un signore che si chiamava Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein, due T, una G e N, Stein, come pietra in tedesco. Questo signor Wittgenstein, diciamo, fu invece il responsabile del rinnovamento, a volte rinnovamento un po' brusco, a volte addirittura proprio, diciamo, rimescolamento, rivoluzione nel modo di interpretare i concetti fondamentali della filosofia relativi al linguaggio. Quindi Saussure nella linguistica, Wittgenstein nella filosofia del linguaggio, introdussero delle novità dalle quali non possiamo prescindere oggi, a un secolo di distanza circa, se parliamo di linguaggio, diciamo non possiamo prescindere, ma al contrario dobbiamo largamente ancora sforzarci di capire quello che questi signori hanno detto, anche perché non è poi così semplice e non è poi così scontato. Detto in modo un po' brutale, tutta una serie di di interpretazioni, di modi di lettura sia di ciò che disse Saussure, sia di ciò che scrisse Saussure, sia di ciò che scrisse Wittgenstein, in realtà rendono il nostro compito addirittura più difficile, perché ci scombinano, ci rendono più ambiguo e più, insomma, difficile la comprensione di queste grandi novità. Anche perché, adesso parliamo prevalentemente di Saussure, perché di Wittgenstein non so se avrò tempo di parlare altrettanto a lungo, anche se naturalmente forse per certi versi Wittgenstein è più, anche per certi versi più complicato di Saussure. Comunque, torniamo a, insomma, Saussure. Il problema di Saussure è che Saussure era, adesso non mi chiedete gli anni di nascita e di morte, lo so che voi non me li chiedete, ma c'è una vocina dentro di me che mi dice: perché non gli dici quando è nata la neuna? E l'altra vocina, questo è l'angioletto, il diavoletto, mi dice: tanto non te lo ricordi, che è vero, perché se me lo ricordassi sarei... Allora, la morte avviene all'incirca intorno al 1913-14, comunque poco dopo il 13, potrebbe essere anche il 15. Quando è nato, sinceramente, ovviamente è nato nell'Ottocento, insomma. Però cosa ce ne frega, ragazzi, adesso. La cosa fondamentale è che questo signore, questo Ferdinand de Saussure, non è che non scrisse nulla, scrisse vari saggi, vari cose, ma non scrisse praticamente nessun libro, non pubblicò nessun libro quando era in vita. E dalle cose che aveva pubblicato sino ad allora, sembrava un linguista molto, virgolette, tradizionale, cioè un normale cultore degli studi sulle lingue indoeuropee, che erano diciamo lo standard degli studi linguistici più o meno dell'epoca, cioè della fine dell'Ottocento. Erano più o meno, era un filone che era emerso all'incirca alla metà del XIX secolo, anzi un po' prima, forse poco tempo prima però, e poi era andata avanti questa cosa. Questa era la con linguistica dell'Ottocento, era praticamente una linguistica cosiddetta comparata, cioè si studiavano le lingue di varie famiglie linguistiche, principalmente quella indoeuropea e secondariamente quella semitica, perché ovviamente non c'erano specialisti in Europa di lingue molto più lontane, molto più distanti, eccetera. Quindi c'era alcuni saggi, lui scrive su questi argomenti qua, un altro paio di cose le scrive, e questo è più strambo, su di un argomento assolutamente invece non soltanto marginale, ma addirittura un po' scandaloso, e scandaloso in senso intellettuale, e comunque insomma poco raccomandabile insomma per un linguista nell'epoca, e cioè fa una serie di studi sugli anagrammi, su come si ricombinano i suoni di una parola per formarne un'altra. Nessuno all'epoca poteva ben capire che cosa, però fino a che per 3 anni di fila, credo gli ultimi anni in cui lui insegnava a Ginevra, lui fa un corso, fa 3 corsi, ovviamente un pochino diversi ma molto simili tra loro, per 3 anni di seguito, e molto molto molto innovativi, molto molto nuovi rispetto al panorama dell'epoca, e alcuni dei suoi studenti se ne rendono conto, si rendono conto che quelli si cazzano, questo ci sta raccontando delle cose che nessun linguista oggi ci racconta. Questi due signori, che si chiamavano Bailly e Sechet, chi è così buono e così gentile da andare a prendere un pezzetto di gesso da così vediamo di scrivere questi due nomi in modo che abbiano un senso, perché anche sono uno un po' complicato. Non sono tanto complicati da dire, ma da scrivere. Bene, questi i corsi sono dei corsi fra il 10, 11, 12, 13, non mi ricordo. Tipo 10, 11, nel 1910, 11, 11, 12, 12, 13, mi sembra, grosso modo. Non so, grazie mille. Allora, Bailly è un cognome facile. La vocale è così, il francese non sa volerci. Sachet è esperto ancora. Credo sia, non mi ricordo se c'è una S finale, no, controllare su internet che non... Questo qua si vende peggio ancora, per il Sachet, perché sì, non potete fare una liaison di tutte quelle H che sono in mezzo, dovete separare i due pezzi, no, non so cosa farci, chiedo scusa a nome dei francofoni, ma a volte hanno dei nomi veramente del cazzo. Però. Allora, questi due sono i due che sono responsabili, allora, e questi due che cosa fanno? Prendono, loro hanno degli appunti, ovviamente non ci sono né computer né registratori né niente, ma so, però loro due, ma... mettono insieme più o meno, fanno un lavoro veramente... Perché non è che prendono, il corso di un anno, no, proprio mescolano le cose, eccetera. A volte certamente fanno delle puttanate, cioè, perché è ovvio, insomma, non è che per, cioè, vuol dire loro non erano Saussure, però vuol dire anche grazie che ci siano stati, perché praticamente attraverso loro esce nel 1922, quindi quasi 10 anni credo dopo la morte di Saussure, questo libro, questo Cours de linguistique générale, che quindi da allora in poi viene costantemente pubblicato come Fernando Saussure, però in realtà non è un libro di Fernando Saussure, sono gli appunti di queste due persone per 3 anni mescolati, cioè ricostruiti con una certa ipotesi. Ovviamente, siccome Bailly e Sachet, che poi non hanno lasciato, a parte questo, grandi impronte, grandi tracce nella storia del pensiero linguistico, possiamo supporre, e facciamo bene a supporre, che a volte i due con l'intero di Ginevrini non avessero capito bene tutto quello che diceva Saussure, anche perché erano cose obiettivamente veramente molto nuove, insomma, rispetto alla tradizione degli studi, come dire, linguistici. Quindi questo che cosa vuol dire, però? Che sia nella esposizione, allora il libro, sembra che il libro sia così enorme, però in realtà, perché c'è un sacco di apparati critici, allora, tanto per farvi capire quanto è lungo davvero il libro. Ok. Ok, il libro sono così, quindi diciamo da 9 fino a 2 sono 270 pagine circa, che non è poco, ma poi se gli aggiungete tutta la cosa, questa è una bella, devo dire, una bella edizione italiana curata da uno dei nostri più grandi linguisti. Ah, eccolo qua, gli anni, perché sono un coglione, perché c'erano scritti dietro. 1857-1913, ok. 1957-1913. Nella forma attuale esso è la ricostruzione dei corsi ginevrini tenuti fra il 1906 e il 1911, quindi ok, gli anni sono a posto. Allora, è mia intenzione, proprio perché diciamo l'impostazione saussuriana è, come dire, fondamentale. Se non capiamo quella, non capiamo nulla né della linguistica, in parte neanche della filosofia del linguaggio del Novecento. Però essendo piena di equivoci, essendo piena di, avendo questa storia così complicata anche dal punto di vista testuale, probabilmente vale la pena di leggere direttamente e cercare di ricavare le cose. Allora, vi dicevo, l'edizione italiana è una vecchia edizione, questa è nuova da un punto di vista tipografico, ma è stata curata per la prima volta nel 1967, quindi siamo un bel po' di anni fa, da uno dei nostri linguisti più grandi, che è Tullio De Mauro, che sarà ancora vivo, chi lo sa, mi sa, tu dici sì? Penso di sì, mi sa che è vivo, però tipo 90 anni, cioè, comunque è un gran personaggio, insomma. E quindi la faccio, cioè, qui quando uno, dire, adesso dubito che nessuno di voi mai si voglia leggere tutto questo libro qua, insomma, però chi nel caso gli venisse voglia, insomma, sappia che questa edizione è la terza del Cours, però bisogna prendere questa edizione, la terza, non un'altra, perché sennò non c'è il commento di De Mauro. Ecco, è un'edizione ben fatta, fatta bene, molto precisa, molto e soprattutto fa, diciamo, giustizia a delle... adesso, naturalmente, io, diciamo, mantenendo le promesse che vi ho fatto all'inizio, nelle prime lezioni della settimana scorsa, non soltanto seguirò De Mauro e abbiamo De Saussure di qua, voi di qua, in mezzo c'è De Mauro, in mezzo ancora c'è Caronia, e quindi avete una doppia mediazione, che non vuol dire che non sia una cosa gravissima, che non vi confonda ancora di più le idee, naturalmente questo è, non so se succede così, mi dispiace, io cercherò di fare in modo che non sia così, ma però nella mia parte di, come dire, mediazione, cioè in quella parte di Saussure via De Mauro che io convoglierò nelle vostre giovani, nelle vostre giovani menti. Ci sarà anche ovviamente una critica o una messa in, come dire, discussione dell'impostazione diciamo almeno una parte dell'impostazione sossuriana, e se qualcuno di voi è abbastanza sveglio e se mette insieme 2 più 2, 4 delle cose che ho detto le volte scorse, capirà che questa mia critica, questa mia messa in discussione riguarderà esattamente le ipotesi universalistiche di Saussure. Saussure è un universalista diverso da quelli che lo hanno, come dire, preceduto, e quindi inaugura una tradizione universalista in linguistica diversa da quelle precedenti, ma ciò nonostante rimane universalista, cioè poi vi racconterò vagamente invece quella che nel corso del XIX secolo è stata l'unica, non chiamiamola teoria che sarebbe troppo, insomma l'unico approccio realmente non universalistico, cioè come dire, conseguentemente relativistico all'ipotesi del linguaggio, che è quella che va con sotto il nome di ipotesi Sapir-Whorf. E soprattutto Sapir, Edward Sapir, che è uno, insieme con Bloomfield, uno dei due linguisti più importanti americani della prima metà del Novecento, nel caso di Sapir siamo, da un punto di vista anagrafico, in una generazione esattamente intermedia tra quelle più vicine a quelle di Saussure, in parte anche di Wittgenstein, poi non erano così tanto, non c'era così tanta differenza, sì, Wittgenstein ha una quindicina d'anni meno di Saussure, grosso modo. Però insomma, diciamo, ci mette un bel po' di tempo prima di, insomma, l'ipotesi di Sapir-Whorf è una cosa che esce fuori nei adesso non vorrei scrivere una stupidaggine, ma insomma, diciamo fine anni 50, primi anni 60, insomma, del secolo scorso. Però insomma, non ha avuto nulla di paragonabile l'ipotesi di Sapir-Whorf da un punto di vista dell'influenza, ovviamente, alle cose che ha avuto Saussure, ma questo voi probabilmente ve l'ho già detto alcune volte, non c'è mai stato, cioè, mai una ipotesi di tipo in qualche maniera relativistico ha avuto lo stesso successo o la stessa influenza o cioè, sono sempre state nella storia del pensiero dell'Occidente sono sempre state dei punti di vista minoritari, a volte fortemente come dire minoritari. Allora, fine del preambolo. Allora, adesso vorrei però tradizionalmente, insomma, per esporre o per raccontare le innovazioni principali che Saussure apportò allo studio della lingua, prima diciamo un po' in generale, poi magari scriverò sulla lavagna una serie di punti, anche se uno dei problemi che noi abbiamo oggi nel comprendere a fondo l'impostazione saussuriana è che se noi seguiamo l'impostazione del Cours, quindi seguiamo l'impostazione data dai due allievi, da quelli che presero gli appunti, probabilmente ci rendiamo più difficile capire in modo corretto l'impostazione del pensiero di Saussure. Detto in altri termini, per una serie di motivi loro, probabilmente i due giovanotti in questione hanno fatto degli errori, cioè hanno preposto una serie di concetti che avrebbero dovuto posporre o preporre, cioè mettere prima invece insomma, che dopo. In altri termini ancora, l'ordine con il quale vengono esposti i concetti fondamentali in questo libro probabilmente non è il più adatto a volte per capire le ipotesi sociali. E questo spiegherebbe tutta la quantità enorme di dibattito che c'è stato dalla pubblicazione del Cur, cioè dal 22 in poi, sulla, dice, ma cosa voleva dire? Ma perché ha detto questo? Ma perché? Per esempio, uno di questi termini, poi dopo vi introdurrò tutti i termini, il termine, la cosa più complicata, eccetera, è che molto bene, uno dei concetti più complicati è quello cosiddetto dell'arbitrarietà del segno, che è insomma, che è. Allora, però, prima di tutto, diciamo, diciamo, qual è l'aggettivo specificativo che da Saussure in poi diciamo serve per denominare, serve per indicare il punto di vista, diciamo, saussuriano. Saussure ha, e questa è probabilmente la sua caratteristica di maggiore novità, insomma, di più grande innovazione nel campo degli studi, diciamo, linguistici, però se non lo commentiamo non capiamo. È quello di avere dato luogo a quella che da Saussure in poi si è chiamata linguistica strutturale, con una sua, allora, il che significa che da un lato dobbiamo almeno vagamente capire, o perlomeno fare cenno, a quelli che sono stati due grandi filoni di ricerca delle scienze umane nel Novecento, che tutti e due in qualche maniera derivano da Saussure, però accentuandone diversi. Uno è quello, diciamo, è il, per chiamare paradigma, insomma, il punto di vista, chiamiamolo il paradigma, il punto di vista generale sui fatti delle scienze umane, chiamato strutturalismo, cioè quella visione delle scienze umane che privilegia, e qui c'è già un po', ci può essere già uno dei primi equivoci, in molti trattati, in molte cose, voi trovate strutturalismo, punto di vista che privilegia la struttura così come è data in un dato momento e non la storia dei sistemi. Chiaro? E questo non è vero. O meglio, è vero che da un punto di vista, diciamo, da un punto di vista di fatto, probabilmente gran parte degli studi strutturalisti, che però vengono fuori parecchio dopo, almeno 20 o 30 anni dopo la pubblicazione del Cur. Il Cur viene pubblicato nel 22, lo strutturalismo scoppia in Europa e quindi nel mondo culturale, negli anni 50, nel corso degli anni 50, quindi passa un bel po' di, passano alcuni decenni, insomma. Quello che non possiamo è, come dire, far risalire questa, se c'è stata, eventuale sottovalutazione dell'aspetto storico alla linguistica strutturale di Chiang Soo-Syu. Soo-Syu non ha mai, anzi, se voi vedete qua, a un certo punto trovate una parte del libro che viene addirittura intitolata alla diacronia, cioè allo sviluppo storico invece che allo sviluppo, per così dire, strutturale. Dov'è? Eccolo qua. La parte terza del cours si chiama addirittura linguistica diacronica. Poi certo, naturalmente lui fa una diacronia un po' particolare, ma non è vero che lui avesse... cioè lui ha sempre sostenuto che era possibile fare una linguistica strutturale sincronica, cioè, come dire, uno spaccato, una sezione, uno slice, una tranche de vie, una fotografia della situazione com'è in un dato momento, sincronica, e una linguistica strutturale diacronica, cioè che desse conto dei mutamenti, diciamo, storici. Quindi quello che è importante capire è perché questa linguistica strutturale, diciamo, questo è l'espro, non voglio che sennò accumulo troppa roba. L'altro filone, cioè l'altra parolina magica, che anche questa viene in modo esplicito, ecco, esplicitamente, dal culo di Soo-Syu, è una parola che si inventa Soo-Syu e che anche quella per 20-30 anni rimane lì in sonno, come i massoni quando non fanno nulla di complicato, di che però poi viene fuori e la parola è semiologia. Se siamo francofoni, un po' semiotica. Se siamo anglofoni, ma naturalmente qui parlando di Soo-Syu, è la semiologia il termine che dobbiamo fare. Fino dalle prime pagine del cours de linguistique générale, che non sono le prime pagine di Soo-Syu, ma le prime pagine dei suoi allievi, in qualche maniera, come dire, Soo-Syu proprio dice, la linguistica vista come la penso io, inquadrata in una teoria simile a quella che io che propongo, non sarebbe altro, in questo caso, in questo senso, che un caso particolare di una più generale teoria dei segni. Siccome il linguaggio, uno dei punti di vista fondamentali del rinnovamento di Soo-Syu è che le entità che costituiscono, adesso poi vediamo cosa, perché pure sull'oggetto dello studio, anzi probabilmente è il punto da cui prende avvio il corso e poi tutta una serie di altre cose vengono dopo, insomma, no? Ma diciamo l'oggetto della linguistica strutturale o della linguistica sussuriana sono i segni. Quindi al centro della linguistica sussuriana c'è qualcosa che si chiama segno. Ovviamente è un segno linguistico, quindi quando faccio una teoria dei segni linguistici costruisco una linguistica strutturale. Se per caso mi riesce di fare una teoria più generale che individua non solo le caratteristiche specifiche dei segni linguistici, ma anche le caratteristiche dei segni più diciamo, generali, per esempio dei segnali stradali, per fare uno degli esempi più stupidi e più cretini di un sistema semiotico che ci sia in giro, ma è quello dei linguaggi stradali. Non mi chiedete a me, che so, perché non so prendere guidare, non conosco neanche i segnali stradali, ma insomma so che sì, no, qualcuno evidentemente lo conoscono, diciamo non ho una conoscenza molto approfondita, ci vorrebbe poco per farla, questo lo so. Ma è un vezzo che uso, è una civetteria che uso sempre a dire così. La gente sa che non guida, quindi. E quindi allora, in questo caso, evidentemente, saremmo di fronte non a una teoria linguistica, no? Non a una linguistica strutturale, ma a una semiotica, più diciamo generale. Voi sapete che sia, allora, a una semiologia. In realtà, questa è la via, sì, più o meno, tramite la linguistica strutturale o non, insomma, che porta, diciamo, la via che porta alla semiotica. Possiamo cancellare tra gli esseri, tanto che continueranno a fare la loro funzione ancora per diverse, diciamo, lezioni, e arriviamo invece, perché naturalmente la semiotica vista dal punto di vista, allora, insomma, diciamo, il corrispondente inglese della semiotica ha una storia anche lievemente diversa da quella. Cioè, mentre in area francofona la via è Saussure, linguistica strutturale, generalizzazione della linguistica strutturale, semiologia, e quindi, diciamo, Barthes, diciamo, tutti i testi fondamentali degli anni 50 sulla semiologia in lingua francese derivano da questa cosa. Invece la tradizione anglosassone di studi sui segni, che è diversa da quella francofona, e che però è particolarmente importante per l'Italia, perché per esempio il più importante semiotico italiano conosciuto, più conosciuto perché è un romanziere, che non perché è un semiotico, ma insomma ha cominciato così, che è semiotico, perché tutti avete capito chi è Umberto Eco. Umberto Eco viene da quella storia, da quell'altra storia, dalla storia anglofona, non da quella francofona, non che non abbia mai letto i francesi, ma naturalmente viene da lì, che ci possiamo fare. Asteniamoci dal dire che questo spiega tante cose, perché penso che le spiegherebbe anche se lui fosse partito dai francesi, perché la testa della persona non si cambia. Però in qualche maniera. Allora, l'origine della semiotica invece è la collochiamo in un signore americano invece, che si chiamava Charles Peirce, non mi direte anni di nascita e di morte, ma chi viene un po' prima, insomma, un po' prima di Saussure. Credo che muoia ancora entro il secolo. Non sono sicuro, ma comunque dovevo guardare, chi ha il computer aperto da su Wikipedia e se lo guarda. E diciamo, Charles Peirce ha una teoria dei segni che è diversa da quella di Saussure, anche molto diversa a volte, più articolata da un certo punto di vista. Se sia più o meno utile, questo è come dire, da poter discutere. Anche molti dei seguaci di Peirce, per esempio Umberto Eco, quando devono utilizzare la teoria di Peirce, la sfrondano agevolmente in tutte le cose più complicate e bizzarre, per esempio la suddivisione, insomma, la classificazione dei segni, che Peirce introduce anche con dei termini veramente complicati, cioè leggi segni, infinito, indice, simbolo, una serie di robe così. No, vabbè, indice sarebbe facile, insomma, adesso non me lo ricordo manco più perché è una complicazione. Però a parte alcune caratteristiche così, cioè la teoria di Peirce per certi versi è più soddisfacente, ovviamente, di quella di Saussure. Però mentre Peirce non ha Peirce era uno straordinario personaggio, che era insieme un matematico, un logico, un filosofo, eccetera, eccetera, ma non un linguista. E Medley Sassoli non era nessuna di queste cose, ma era un linguista. E quindi l'enorme successo che ha avuto Sassoli, più che per, bisogna dire anche fuori dalla, anche fuori dagli ambiti, diciamo, di pertinenza linguistica, insomma. I semiotici possono illustrarla come vogliono, insomma, ma in effetti la gran parte della produzione semiotica o semiologica nel corso del Novecento deriva a una matrice sassuriana più che persiana. La cosa ci può dare fastidio, possiamo dire tutto quello che vogliamo, che la cultura, che gli intellettuali sono una manica di faciloni, cioè di gente che sceglie le cose più facili, va tutto giusto. Però ci sarà una ragione per la quale, come dire, Saussure ha avuto non soltanto successo, ma ha avuto degli esiti, cioè le cose dove Saussure sono andate avanti. Nonostante il poderoso trattato di semiotica generale del nostro amato conducatore dei semiotici nazionali, Umberto Eco, nonostante il trattato generale di Umberto Eco, la tradizione semiotica non ha prodotto la stessa ricchezza di strumenti e di cose utilizzabili, poi, insomma, che ha prodotto la tradizione semiologica. Questo lo dico, ma insomma, questo lo dico perché devo sempre dire quello che penso. È un vizio che ho terribile, che non mi passerà mai, ma se volete tentare di farmelo passare, ovviamente siete autorizzati a fare competizioni di ogni tipo, agguati, no, magari. Allora, voi capite che cosa strutturalismo, cioè una... Allora, sullo strutturalismo vorrei dire due cose, ma tanto per... perché adesso sembra molto probabilmente il... diciamo, intanto il termine non fa più paura a nessuno. Dimmi? A tempo sì. A tempo sì. È sempre confortante sapere che c'è qualcuno... Allora, non spiegherò meglio. Per tutto il corso degli anni 60 in Italia, in Europa, 1960, ogni pensatore nuovo che veniva colto a occuparsi della produzione sociale di segni, senza fare riferimento in maniera forte e dura ad un concetto di soggetto, cioè a una sorta di autore ingombrante e a volte anche maleducato e sconfinante, insomma, no? Il soggetto, quello che va in... O qualsiasi cosa si faccia c'era questo soggetto. Allora, a un certo punto qualcuno mi sa dire, ma ragazzi, forse è meglio cominciare a studiare le cose come se il soggetto non ci fosse o come se non fosse così importante come noi, come dire, pensiamo. Bene, facciamo due nomi soli, per esempio Foucault, Michel Foucault da un lato, lui Althusser dall'altro. Sono due pensatori che Foucault nell'ambito diciamo, della filosofia più classica, fenomenologia, eccetera, Althusser nell'ambito del marxismo, cominciano a proporre dei punti di vista che fanno arretrare un pochino il soggetto, no? E dicono, vabbè, adesso, studiamo i sistemi, senza andare a vedere chi l'ha fatto questo, Mattia, no. Bene, tutti e due sono stati subito negli anni 60 battezzati strutturalisti. Nessuno dei due, né Foucault né Althusser, erano neanche lontanamente strutturalisti. Non gli veniva in mente neanche manco a capa, non gli passava neanche per l'anticamera del cervello di sostenere il dogma fondamentale dello strutturalismo, cioè che io ve lo dico un po', insomma, così chiaramente nessuno strutturalista all'epoca sarebbe stato d'accordo, ma adesso me lo posso permettere perché lo strutturalismo è passato, quindi posso permettermi di dire io poi qual era il dogma dello, come dire, strutturalismo. Il dogma dello, come dire, strutturalismo era: esistono solamente le strutture e non ce ne frega niente dei processi soggettivi o non soggettivi che le hanno generate. Punto. Questo era lo strutturalismo. Adesso, chiunque abbia letto mezza pagina di Foucault può chiaramente può dire quanto potesse essere strutturalista Foucault. Chi ha letto le prime due pagine di Lear Marx di Althusser può dire quanto fosse strutturalista Althusser, nessuno dei due lo era evidentemente. Ma lo strutturalismo per un periodo fu una breve fiammata che per 15-20 anni incendiò l'Europa, tutti erano strutturalisti, si scrivevano libri. Io ne ho uno dei primi anni 60 di un francese tradotto in italiano, tale Roger Bastide, titolo Usi e significati del termine struttura. Cazzo, mi ricordo che mi venne utile a me all'epoca, quando ancora io ero marxista, quindi avevo un sacco di, insomma, problemi, però ero sempre curioso di queste robe, quindi poi non ne feci nulla, insomma, perché ci misi decenni prima di far fruttare dentro di me quelle poche cose che avevo letto. Però è comunque, come dire, significativo che, avendo capito anch'io, essendo prevalentemente un ragazzo di strada, cioè di strada non nel senso che non nel senso proprio, diciamo, letterale, ma insomma non ero inserito dentro alcun filone, tranne appunto che il marxismo, ma più da un punto di vista politico che non culturale, insomma. Però insomma ero un po' curioso. E quindi mi guardavo, insomma, usi il significato del termine struttura, c'erano dei libri che ti spiegavano cos'era lo strutturalismo, cosa faceva, eccetera, eccetera, perché effettivamente ha avuto un grande successo, cioè ha avuto una e però qual è stato il suo equivoco? È quello che vi ho detto prima, cioè il fatto che mentre dall'interno di alcune tradizioni di pensiero delle scienze umane, la fenomenologia, il marxismo, anche il kantismo, si fa strada già negli anni 50 un processo di revisione del concetto e di critica del concetto di soggetto e della pratica di soggetto, e quindi non si dà più per scontato che il soggetto sia l'autore di tutte le cose principali e più importanti condotte all'interno di quelli che poi Foucault chiamerà invece i processi di soggettivazione, ma che ci sono i processi di soggettivazione senza che automaticamente ci debba essere qualche cosa chiamato soggetto e che corrisponda a una descrizione di una sostanza, cioè di un'essenza. Questo è il soggetto. Adesso te lo descrivo, ti faccio vedere, il soggetto è fatto così, sta lì lassù, non lo puoi toccare, non cambierà mai, perché essendo il soggetto come può cambiare? E se, allora, se non potrà cambiare col soggetto, no, ovviamente ci arrivate tutti, non potrà cambiare neanche l'oggetto, no? E allora, come dire, tutte queste posizioni, questi punti di vista così sostanzialisti, così essenzialisti, che cosa fanno? Cioè ci impediscono, ci rendono difficile capire come si è prodotto questo soggetto. Perché questo soggetto, il proprio appare, un tempo non c'era, non c'è sempre stato. Viene fuori con Cartesio, prima di Cartesio non c'è nessun soggetto. Andate da Erasmo, da Rotterdam, a fargli vedere, guarda, c'è un tipo che ha scritto una bella cosa, dice che siccome lui pensa, dunque è, dice cogito ergo sum, dice come ne pensi? Erasmo da Rotterdam gli avrebbe riso in faccia, gli avrebbe detto, ma che dice questo? Cogito ergo sum, ma che è matto, è scemo, cogito ergo sum, cogito, non c'è nessun ergo. Da cogito a sum, no? Non c'è nessun passaggio questo passaggio. Adesso per noi è grazie al cazzo, noi veniamo dopo secoli, quindi siamo abituati, cogito ergo sum, no? Cogito ergo sum, tutti lo sanno. Ma pensateci un attimo, dove sta la giustificazione che dal cogito ti fa? Sum è un'affermazione pesantina, non è una cosina così, è sono. Cioè, chi è che può dire sono? Chi è che dice sono senza pudore? In una grande opera della letteratura religiosa. Della letteratura religiosa mondiale. C'è uno che dice sono, dai, su. Incendia un roveto, si mossa, c'è un poveretto lì, un bovaro, un capraro, che lo sa guardare, certo che è Dio. Yahweh? Cosa dice? Io sono colui che è, ma lui lo può dire, sono colui che è, lui lo dice, Yahweh, accidentaccio, ha fatto il mondo, è il creatore del mondo, grazie al cazzo che può dire io sono colui che è. Lui lo può dire, ma noi possiamo dire io sono? Noi possiamo, siamo come giustificati a dire io sono? Voi tutti dite di sì, lo so che dite tutti di sì. Ma pensateci bene, io sono è un'affermazione di una gravità sconcertante. Per dire io sono, voi dovete supporre che dentro di voi c'è qualcosa che non cambia mai. C'è qualcosa che era così quando siete nati e qualcosa che sarà così quando voi morirete. Io lo so che voi, tutti, anch'io, figuriamoci, tutti la inseguiamo per tutta la vita questa cosa. Inseguiamo per tutta la vita, certo. Non dico che non la inseguiamo. Ma abbiamo delle garanzie che da qualche parte questa esista? Delle garanzie, Ripeto, Dio ce l'ha le garanzie, grazie all'anima, ha fatto il mondo lui. Cioè, si può permettere quello che gli pare, Di spartire le acque del Mar Rosso, di mandare le 10 piaghe d'Egitto al povero faraone, insomma, povero, schiavista, insomma. Forse non se le meritava tutti e 10, poveretto. No? Di tutti i colori, sì. Ma lui può farlo, ma noi? Noi, che siamo il regno della finitudine, della finitezza, del cambiamento, che cambiamo ogni ora, ogni minuto, ogni momento, che abbiamo 3, 4, 5, 10 io dentro di noi, che si combattono, che si piacciono, che si alleano, che si... Noi possiamo dire io sono? O non è veramente da presuntuori dire io sono? E così è stato Cartesio, cogito ergo sum. Ma non c'è stata mai, cioè, tra tutti i possibili fondamenti di tutti i sistemi filosofici, almeno nel corso del pensiero occidentale, escogitati dai filosofi per dare fondamento a qualche realtà, non ce n'è uno che sia più gnocco e più instabile e meno del cogito ergo sum. Il cogito ergo sum è il più traballante di tutti. Ma dove sta? Dov'è? Attraverso quale miracolo? Un cogito, un atto di riflessione interna, un atto di una chiacchieratina interna tra i miei 10 miliardi di neuroni, tra alcuni, neanche tutti, tra alcune centinaia di migliaia di questi neuroni, una chiacchierata interna, una roba davanti a una birra. È una birra, sei, tu pensi, sì, cosa fai? Allora sei. Questa roba si può trasformare in un fondamento reale di qualcosa? Nell'esistenza, Non dice esisti, avesse detto penso dunque esisto. Vabbè, penso dunque esisto, nessuno può dire di no. Esistiamo, sì, più o meno. So. Ci può essere sempre, cioè, perché poi fra l'altro, se voi vi andate a leggere sia il discorso sul metodo, che le meditazioni metafisiche, in cui entrambe viene esposta questa sedicente, fondazione fondazione dell'ontologia, insieme dell'ontologia e dell'epistemologia, della della stabilità del mondo e della stabilità del soggetto, perché la grande furbata di Descartes è quella di avere fuso insieme epistemologia e ontologia con una mossa sola, hopla, veramente siamo al circo, hopla, hop hop hop, cogli tu a costume, è così, dice, insieme si fonda tanto l'ontologia, possiamo dubitare di tutto, ma non del fatto che pensiamo, ovviamente adesso che nessuno gliel'aveva detto, no? Qualcuno gliel'ha detto anche a Cartesio, non è che si guarda che... Guarda che non è così semplice, cioè quell'ego lì, non è chiaro, cioè tutto, in tutto il secolo successivo i filosofi inglesi che, per esempio Hume, che sono cattivelli quando ci si mettono, però bravi, gentiluomini, non è che proprietari terrieri, gente di campagna, gli olandesi, guarda che Hume ha detto, è post hoc. Perché viene dopo, non propter hoc, non a causa di ciò. Quindi, state calmo. Cioè, non è che puoi fare... Cioè, non è che, in realtà, insomma, Cartesio non dimostra nulla se non una... Cioè, l'unica cosa che la mossa ontologica e epistemologica di Cartesio dimostra è l'estremo attaccamento che aveva... Che aveva Descartes nei confronti dei problemi di fondazione, nei confronti della fondazionalità. Però, mentre questo qualsiasi filosofo deve averlo, no? Qualsiasi filosofo deve averlo, se non ha una sensibilità per i problemi della fondazione, ovviamente non è un filosofo, però non è detto che i problemi della fondazione devono essere risolti tutti nello stesso modo, no? come dire, non voglio dire che il cogito ergo sum è il modo più semplice di risolverlo, può anche essere complicato, però non è l'unico. E c'è un altro modo, che è quello, dopo aver discusso sui problemi, dopo aver sviscerato i problemi di fondazione, di concludere che non c'è nessuna fondazione, che non abbiamo nessun terreno sul quale realisticamente fondarci per costruire qualche cosa. Guarda caso, questo risultato, non lo dico io, non l'ho mica detto... Non lo dice quella mente malata di Caronia, che non gli piace nulla di stabile, vorrebbe che tutto fosse sempre sottoposto al terremoto, tanto non vive in Giappone, quindi se lo può pure permettere. Questa cosa la dice un grande logico e filosofo e matematico del Novecento, chiamato Kurt Gödel, il quale nel 1935-36 dimostra due teoremi, non dice delle, non dice cogito ergo sum, dimostra due teoremi da cui si vede, non che non è possibile fondare, ovviamente no, si può sempre fondare qualsiasi cosa, insomma, ma che la logica non si può fondare su se stessa. Ora, l'autofondazione della logica e della matematica è stata per due secoli almeno il grande sogno, no? Di tutti i matematici, di tutti i logici. Perché? Perché ovviamente dietro questa non c'è nient'altro. Cosa c'è dietro alla logica, dietro alla matematica? Nulla. Cioè, non ci può essere nulla, se no... E quindi l'idea che in qualche maniera, poi storicamente è stato così... diciamo nel congresso dei matematici del 1901 o del 1899, chi si ricorda, non mi ricordo, diciamo 34 o 36 anni prima della dimostrazione di questi storici teoremi del signor Gödel, da parte del signor Gödel, il David Hilbert, che era il grande papa dei matematici dell'epoca, il più grande matematico di quell'epoca lì, ad un congresso mondiale dei matematici, fece un elenco di 20 questioni che erano ancora aperte nella matematica e nella logica, non erano risolte. Quindi erano dei possibili teoremi che potevano essere dimostrati. Tra questi ovviamente c'era il problema dei fondamenti, perché il problema dei fondamenti si stava ponendo in quel periodo grosso modo, e le scuole di auto, insomma, diciamo, di logica matematica, cioè quella di Hilbert da un lato, che è quella di Frege dall'altro, che era un altro tedesco più filosofo e logico che non matematico, ma insomma. Diciamo, entrambe queste, diciamo, scuole avevano una preoccupazione fondazionale, cioè volevano fondare in qualche maniera. Hilbert voleva fondare, Hilbert era il più pazzo naturalmente, perché pretendeva di fondare la matematica infinita, transfinita, eccetera, sulla matematica finita. Diceva, no, ma vedete che ci arriviamo prima o poi. Basta che noi mettiamo a posto tutto con gli insiemi finiti. Gli insiemi finiti sono gli unici su cui si possa dire qualcosa di, diciamo, solido anche in matematica. Quando comincia a venire fuori l'infinito siamo tutti, cioè, compreso il matematico, sì, l'ho perso. Quindi, la matematica infinita su quella finita. Su quella finita, questo si chiama, infatti si chiama finitismo, l'impostazione diciamo di Hilbert. È ovvio che questa. I due, diciamo, teoremi di Gödel fanno fuori d'un botto sia Hilbert che ovviamente Frege, più Hilbert forse, ma insomma. Invece l'idea di Frege è un po' diversa. L'idea di Frege è, cambiamo un po', spostiamo un po' tutto questo si fonda sul fatto che tutta la matematica sviluppata nell'Ottocento, e che era già tanta, perché la matematica ha cominciato ad avere uno scoppio esponenziale alla metà del Settecento, insomma, quindi da quando si stabilizza l'analisi, la cosiddetta analisi infinitesimale, insomma, il calcolo differenziale, e poi diventa, nel Novecento, poi diventa una roba che oggi non si... Io la mia tesi di laurea in matematica risale al 1972, già allora non era molto aggiornata, ma io ignoro cosa sia successo da quel momento in poi, siccome non mi sono più occupato di matematica in maniera specifica, ma so, da quello che mi dicono gli amici, insomma, che è una roba, cioè, quello che si occupa di matematica in un certo ramo non sa nulla di quello che, non in fisica, no, con matematica del ramo vicino, quindi due rami neanche tanto distanti, quindi non ne parliamo neanche. Allora, l'ipotesi di Frege è, allora, sia Frege che Hilbert ovviamente condividono il fatto che tutta la matematica, anche quella infinita, si basa sulla matematica finita, cioè sullo studio degli insiemi o degli insiemi numerici con un numero finito di elementi, 1, 2, 3, 4, 5, appunto. Il passaggio dal finito n al cosiddetto infinito numerabile, che è il più piccolo infinito possibile, quindi quello dei numeri naturali, insomma, richiede una serie di operazioni logicamente possibili, sulle quali però dovremmo andare ad indagare sulla loro fondatezza, cioè sul fatto di quanto fondamento abbiano, ma si può fare in qualche modo. Ora, mentre il punto di vista di Hilbert era un punto di vista fondazionale, tutto interno alla matematica, quindi Hilbert sperava di poter dimostrare quanto la matematica infinita potesse basarsi sulla matematica finita, il punto di vista di Frege è un po' diverso. Frege vorrebbe basare tutta la matematica sulla logica, a prescindere dal fatto che sia una logica finita o infinita, di fatto non è possibile costruire una teoria matematica anche banale, stupida, come quella dei numeri naturali, perché basta che siano infiniti, ci occorre purtroppo una logica infinita, una logica che abbia un numero infinito di variabili logiche per poterci lavorare. Però insomma questa... Frege, scrive Frege, sì, però siccome è tedesco. Frege. I tedeschi non hanno il suono G, o meglio ce l'hanno, ma ce l'hanno con la J, loro leggono due tutte le G, quindi se vuoi anche il nome, si chiamava Efraim Gottlob. Efraim con il PH, Gottlob, basta frega, dici, basta, giustamente, non siamo a strafare, che sono personale, se no poi gli dai così, si chiama tanto così. E quando hai messo il nome, dai, dice quando sei nato, cosa hai fatto, DNA, quante c'avevi mogli, ti sei mai sposato, codice fiscale, tutte le robe. Meglio di me, meglio di me, lasciamo perdere. Non diamogli spazio. Bene, allora. Allora, il sogno di Frege quindi è quello di fondare la matematica sulla logica, cioè ridurre attraverso ovviamente il ponte alla teoria degli insiemi, cioè quella parte della matematica che obiettivamente è già più simile a una logica. Allora, questa illusione dura poco più di 30 anni, perché questo signore, Gödel, si scrive G, O con la umlaut, D, E, L. Il nome lì si può dire, perché il nome è Kurt. È Kurt. Quello che è scritto giusto. È scritto giusto, è come... perché è come quello lì, come si chiama? Carco Bene. No. Carco Bene. Ah no, perché cosa non è? Quello di... Oh. Quello del film non è Kurt, è Kurtz, vedi? Pensavo a quello, ma è Kurtz, non è Kurtz, va bene. Allora, Kurtz Gödel dimostra due storici teoremi dimostrati nel 35 e nel 36, e cioè dimostra che se un sistema logico ha abbastanza infiniti, cioè anche pochi, ma tali sufficienti da poter permettergli di parlare dell'aritmetica. L'aritmetica è un insieme infinito, perché è l'infinito più scauso, più cretino, più stupido, più semplice che c'è, però è un infinito comunque, non è che sia. Bene, all'interno di questo, se un sistema logico ha quindi ha sufficiente potenza, si dice, no? È sufficientemente forte da permettere la formalizzazione dell'aritmetica elementare, che comporta un insieme infinito di numeri, allora è possibile trovare all'interno delle proposizioni di questo sistema logico una proposizione la quale afferma due punti: io sono vera e non sono dimostrabile. Chiaro? Attenzione, non è che lui dice, non è che Gödel dice, ah, c'è questa proposizione, chissà dov'è, ma io dimostro che c'è. No, lui non solo dimostra che c'è, ma la costruisce, la fa. La dimostrazione del primo teorema di incompletezza dura 50 pagine, quindi spazio, diciamo, ce n'è, per costruire con un sistema che aveva già usato Kant, che è il sistema diagonale, una proposizione di questo tipo, che contemporaneamente afferma di essere vera, quindi dal punto di vista semantico è indubitabile, perché è vera, in qualunque interpretazione noi si dà della logica, quella sarà vera. Ma sintatticamente voi non troverete mai, non che non l'avete trovata, siete sicuri che non c'è una via per poterla dimostrare, cioè, anzi c'è l'opposto, c'è un insieme di ragionamenti che dice io non faccio parte dell'insieme di proposizioni dimostrabili, eppure sono vera. Quindi i sistemi logici capaci di formalizzare l'aritmetica sono necessariamente sistemi incompleti. Hanno più proposizioni vere di quelle che non si possono dimostrare. L'unica situazione che sarebbe andata bene fondazionalmente dal punto di vista sarebbe stata che questi sistemi fossero completi e che quindi non ci fosse discrasia, che non ci fosse differenza tra proposizioni vere e proposizioni dimostrabili. No? Questo non vuol dire nulla, questo non vuol dire che bisogna smettere di fare matematica. Non si può fare benissimo matematica, perché ci sono un sacco di altre proposizioni che sono dimostrabili. E i vari matematici normali vanno avanti così, anche i logici, ci sono un sacco di proposizioni logiche, anche se obiettivamente ormai le proposizioni dentro i sistemi logici, diciamo, già classicamente sviluppati, come il calcolo dei predicati, anche calcolo dei predicati con quantificatori, eccetera, ormai cosa c'è più da dimostrare? Si è dimostrato tutto, cioè non è che più. Però uno si può sempre inventare un'altra logica nuova, inventa le cose nuove, penso. Ma la cosa importante è che tutte queste logiche non fondano un bel accidente di niente, non fondano nulla. L'unico modo per poter avere un sistema che sia in grado di fondare la aritmetica è quello di costruire una teoria che non sia una teoria sullo stesso piano, come dire, sostanziale delle teorie aritmetiche che esso pretenderebbe di fondare, ma che abbia un passo in più, cioè che sia una metateoria. Cioè, se voi costruite una metateoria, certo che potete farlo, potete dimostrare. Però costruite una metateoria, cioè costruite uno strumento che ha una potenza, come dire, insomma, un po' eccessiva anche. È come sparare a un passerotto con un cannone così, insomma. Cioè, sì, ma il passerotto è come fare la chimioterapia, insomma, fate fuori una parte di cellule malate e anche un altro tot di cellule sane. Non ci sono cristi, cioè non c'è modo di uscire. Come dire, questa, dice, allora perché non mi tengo questa ipotesi fondazionale? Certo che posso tenermela, questo è ovvio, ma è un'ipotesi fondazionale un po' stupida. Cioè nessuno negava che salendo di livello, io sarei riuscito a fare. Quando si sale di livello, in genere le robe funzionano sempre. Faccio un livello di più, ci metto dentro tutto quello che c'è da mettere dentro, di dimostrabile o non dimostrabile, di pertinente, di significativo del livello successivo. Il problema è quanta roba mi entra dentro insieme che io non vorrei che c'entrasse. Questo è il problema. Cioè, è il trovare una minima dimensione di aumento degli strumenti che non sia eccessiva. Perché se è eccessiva è come se non ci fosse. Che facendo una metateoria io sia in grado di giustificare qualsiasi teoria che ricade sotto questa metateoria è banale. È banale, la mia metateoria è una teoria che ha come oggetto gli elementi della teoria di base. Grazie all'anima, certo. Ho fatto un alfabeto, ho fatto una roba, ho costruito delle parole, delle robe, ci ho messo, e le tratto, invece di trattarle all'interno di questa teoria, le tratto con una metateoria. Benissimo, bravo, complimenti, 7 più, però cosa hai fatto? Cioè, siamo in grado di capire quanta roba nuova ci hai messo? Perché se ne hai messo troppa di roba nuova, è come se tu non avessi combinato nulla. Mi permetto di anticipare qualche cosa che verrà dopo, di cui parleremo dopo, sia parlando di, sono sicuro, che parlando d'altro. Però ve la dico perché, siccome è di grande attualità, è di grande attualità perché incarna uno dei sogni principali, più importanti della cultura contemporanea da un certo punto di vista. Nonostante i teoremi di Gödel, I teoremi di Gödel che cosa ci dicono? Ci dicono in fondo che la sintassi, perché a livello sintattico che non si può, che il teorema di Gödel dimostra che c'è qualcosa che a livello sintattico non va, cioè non è dimostrabile, quindi no, non c'è nessuna catena finita di ragionamenti che ti porta dalle ipotesi alla tesi di quel, cioè, di quel teorema. Però il teorema è vero. Allora, che cosa vuol dire? Si può dire in due modi diversi e tutti e due diciamo corretti, no? Da un lato si può dire che la sintassi di quei sistemi è troppo ricca perché se non esiste nessuno strumento automatico per trovare una sequenza di ragionamenti che dimostrino quel certo teorema, vuol dire che la mia sintassi è troppo ricca, perché vuol dire che io non sono in grado di formalizzarla dentro un procedimento automatico, ok? Però da un altro punto di vista può voler dire invece che è troppo debole. È vero? È troppo debole, perché? Perché ciò che a livello semantico è garantito, cazzo no, c'è una... E adesso mi rendo conto, non voglio darvi troppe informazioni, ma insomma, la specifica asserzione prevista dal primo teorema di Gödel è un'asserzione che dice: io sono una asserzione indimostrabile, e per far vedere che è indimostrabile c'è un modo per assegnare un numero a questa proposizione, e questo numero si vede che in una possibile corrispondenza tra enunciati dimostrabili, enunciati dimostrati, che sono l'effetto di una catena di ragionamenti, e enunciati veri, c'è questo qui, questo numero, questo dice no, io sono fuori dal computo. Allora, il teorema di Gödel indica contemporaneamente una eccessiva forza e una eccessiva debolezza del sistema sintattico, di un sistema sintattico capace di regolare, capace di formalizzare almeno l'aritmetica elementare. E quindi poi tu, se formalizza l'aritmetica elementare, in realtà poi tramite tutti gli altri meccanismi di costruzione degli altri pezzi della matematica, compreso il calcolo tensoriale, comprese tutte le robe più pazze del mondo, tutto quello funziona. Ma se noi abbiamo messo a posto le cose dal punto di vista dell'aritmetica elementare, siamo come dire, tranquilli. Per questo abbiamo così tanta fiducia in Euclide. No, nel senso che lui ha detto le robe, cioè lui si è occupato delle cose di base, insomma, no? Allora, se voi ci pensate un attimo, con molta cautela, però possiamo dire la stessa cosa del linguaggio nei confronti dei suoi contenuti. Noi abbiamo spontaneamente ci verrebbe da dire che il linguaggio è qualcosa che serve per descrivere il mondo e che è abbastanza adeguato per descrivere il mondo, non mi lascia mai a corto di parole, anche quando è successa la Shoah, retorica, non ci sono le parole per descrivere, non è vero, cazzo, ci sono state le parole, ci sono state. E Primo Levi ha scritto il suo libro, e Coso e Cior hanno scritto, tutti quelli che devono scrivere hanno scritto, non è che non hanno scritto, come non c'erano le parole, ci sono state le parole. Non mancano mai le parole, si possono sempre trovare. Saranno inadeguate, non ci piaceranno, però daranno luogo ad altre parole, ci sarà un'altra, perché c'è il testo e poi c'è il commento, poi c'è il commento del commento, poi c'è, questa è la storia del linguaggio, è questa. Innesca una catena tendenzialmente infinita. Bene, sembrerebbe, dice Dio, buono, che bello strumento che abbiamo, abbiamo una parola per tutto. C'è sempre qualche cosa, non saremo mai accorto di parole, non saremo mai accorto di discorsi, potremo parlare sempre, potremo parlare, va bene, ok. Vi condono tutte le battute che potete fare su di me, va bene. Certamente ci sono alcune persone che stavano meglio di altre in una situazione in cui si può parlare sempre, certo, me ne rendo conto. Però insomma, tutti quanti, possiamo avere tutti una situazione nella quale, ecco, sappiamo che non siamo a causa di parole, sappiamo, siamo garantiti, abbiamo la garanzia che il nostro linguaggio esprime il mondo. Ma siamo sicuri che esprima, che non esprima niente più del mondo? Siamo sicuri che non sia così ricco il linguaggio da non avere qualche cosa di inedito da dire? Di parlare, che ci metta in grado di parlare di qualcosa che non è ancora successo, che magari succederà. Però bisogna andare cauti quando uno parla di qualcosa che non è successo, qualcosa che non ha realmente una corrispondenza nell'ordine delle cose. Io posso prevedere che questo qualcosa succederà, ma mica posso essere sicuro. Non ci pare che il linguaggio da questo punto di vista sia un po' come quelle metateorie di cui dicevamo prima? Sì, certo, ce n'hanno di più, ma ce n'hanno, hanno un po' troppa roba in più. Consentono di fare delle cose poco sane da un punto di vista metodologico, dal punto di vista... consentono di costruire delle cose che non hanno referente. Adesso quando poi a poco introdurremo, abbiamo già introdotto le volte scorse, insomma, diciamo, questa coppia di concetti che sembra così potente, così forte, che è significanza e significato. In realtà il significato non va letta, cioè il significato non è dalla parte del mondo e il significante è dalla parte del linguaggio, il significato stanno entrambi dalla parte del linguaggio. Però c'è qualche cosa che in un sistema linguistico sta più chiaramente dalla parte del mondo, ed è quello che si chiama il referente. C'è qualche cosa a cui in genere il linguaggio si riferisce. Bene, nella ipotesi ingenua che ci sia una corrispondenza bionivoca tra il linguaggio e il mondo, questa ipotesi ingenua può essere esplicitata così. Ogni elemento linguistico ha il suo proprio referente. È plausibile questa affermazione, secondo voi? Si può trovare facilmente qualche cosa che la mette in crisi, che la falsifica? Sì. Sì? Prova a dire, se dici sì, avrai in mente qualche cosa. Ho visto una performance? Sì. Video? Sì. All'Autobahn Museum di Berlino, sì, di Boris, okay. in cui faceva tutta una serie di diversi culturali, sì, che erano apparentemente tutto significato in qualsiasi lingua, comunque era una linguistica che lui stava inventando, a cui corrispondeva anche una sorta di scrittura che anche lì non esisteva, però c'era appunto, metteva dei rumori, e una volta differente. Sì, allora va bene, non credo che funzioni così, No, ti spiego. Però ci possiamo avvicinare a qualcosa. Allora, non funziona così perché allora, c'è tutta una produzione, diciamo, non linguistica, perché è difficile chiamarla linguistica, però chiaramente fonica, di suoni. Adesso Beuys l'ha fatta, Beuys, bravissima persona, importantissimo autore, però viene buon ultimo, prima di Beuys c'è stato Artaud, prima di Artaud c'è stato Hölderlin, allora c'è tutta una lunga, gioco in casa perché sto facendo un seminario su arte e follia a Macao, quindi è ovvio che gioco in casa, nel senso che siamo dovuti studiare, oltre che l'altro modo di leggere è che sono matto io, cioè, come ovvio. Io sono stato poi perché l'ho vista. Ho capito, sì, ma devo dire, allora c'è stata una. Allora, questa cosa che tu dici ha un nome, si chiama glossolalia. Nella poesia moderna e contemporanea, moderna anche solo, c'è tutta un piccolo campo, però abbastanza agguerrito, che si basa su queste glossolalie, cioè sulla produzione di suoni o sulla emulazione scritta di suoni prodotti. Poi Artaud ha fatto sia quella vocale che quella, diciamo, scritta. Ora, questo però è un caso un po' particolare, perché rappresenta, nessuno il baba becchi kakuha, cioè, ok, allora io, prima di Beuys, no, perché mi sono stessi anni di Beuys, anch'io ho fatto una roba del genere, cioè mi sono inventato un linguaggio che ho erroneamente attribuito ai cose marziane, poi mi sono truccato, mi sono messo una maschera con altre persone marziane. Poi mi sono messo una maschera e un trucco come altre persone. Siamo andati in giro, abbiamo fatto la prima invasione dei marziani a Milano. Era il 1978, figlia mia, capirai che cosa vuoi che pensassimo a documentare noi. Ci sono delle foto, sì, certo. Le foto però per fortuna non si capisce chi sono io e chi sono gli altri, ovviamente. Qualcuno prima o poi ci arriva, insomma, vabbè, e abbiamo fatto questa prima invasione dei Maestri di Milano in cui io, principalmente io, però anche altri tre o quattro, abbiamo dialogato per tutto il percorso di questo pseudo corteo con i cittadini milanesi con questa lingua inesistente, facendo finta di rispondersi, eccetera, con una serie di cose. Trucco che poi ho, diciamo, rinnovato, l'ho fatto in altre tre o quattro occasioni, questa volta senza maschera, e quindi sputtanandomi di più, come ovvio, fai 3 minuti di vocalizzi, cioè c'erano importantissimi intellettuali milanesi che mi guardavano, ovviamente, questo è scemo nella testa, però erano anche, però gli rodeva anche un po' che non c'erano arrivati loro, adesso farlo non voglio dire, ma insomma, senza per non fare nomi, Maria Corti, Francesco Leonetti, cioè importanti, senza far nomi, certo. Importanti, allora, quindi capito, nel senso che c'è, allora, però questa cosa è un caso molto particolare, dice, vabbè, ok, sei tu che scegli di produrre, sei tu che scegli di imitare, imiti la forma e la struttura del linguaggio in un modo però che automaticamente ti auto, sei tu che parli, sei tu che pseudo parli, tu nel senso di io in questo caso Beuys o Artaud, eccetera, no? Ci siamo auto esclusi, ci siamo auto tagliati dalla possibilità che le nostre 10.000 virgolette parole significassero qualche cosa. Quando io mi chiedo se c'è una sovrapposizione totale tra il linguaggio e il mondo, escludo questi casi un po' particolari di casi limite, insomma, no? Che sono interessantissimi, utili, molto belli, eccetera, hai tirato fuori un bel argomento. però di per sé non mi risolvono il problema. E io dicevo, a parte questi casi qua, però, utilizzando il linguaggio come si utilizza normalmente, parlando italiano, parlando inglese, parlando cinese, parlando... È vero che la produzione linguistica possibile esaurisce obiettivamente gli stati del mondo? Ovviamente tutto il contesto che vi ho dato suggerisce che la risposta sia no, questo è ovvio. Cioè, perché se no non saremo qui a... Cosa? Fai qualche esempio. Io, metafisica e teletrasporto. E dillo più volte. Dio, metafisica e teletrasporto. Dio, metafisica, teletrasporto. Queste tre parole corrispondono a qualche dato di fatto, a qualche stato. L'unica che potrebbe dare qualche equivoco è teletrasporto. Perché? Perché teletrasporto? Potrebbe essere ambigua. È composta da due parole. Anche metafisica è composta da due parole. Due parole greche, ma... Teletrasporto perché ci hanno visualizzato con... Teletrasporto perché esiste una, perché uno potrebbe... Bravissimo, questa va bene. Perché potrebbe, forzando molto le cose, annettere ai territori del reale i territori di un film o di un serial televisivo in cui il teletrasporto viene comunque praticato, e quindi con questa accezione estesa del termine reale, cioè comprendendo il termine reale anche il termine... Ma metafisica obiettivamente, cioè adesso... sì. Allora, metafisica, anche su metafisica c'è la sua scappatoria, perché Dio, allora, sì. Anche Dio, chi crede in Dio o chi è convinto che ha un'ipotesi spiritualista anche al di fuori di Dio, evidentemente in qualche maniera penserà che sia al termine Dio che al termine metafisica corrispondono le... però questo si fa presto, sia per metafisica che per Dio si fa abbastanza presto, perché basta che ridefiniamo un po' meglio il concetto di realtà in un modo che magari tiene dentro il telefilm ma tiene sicuramente fuori Dio. Attenzione, i rompicoglioni ci sono sempre, quindi Santa Teresa d'Avila purtroppo non possiamo fare a meno di lei, ma, però diciamo possiamo riformulare il concetto di realtà dicendo che decidiamo di chiamare realtà tutti gli eventi che cadono sotto il dominio dei sensi umani, della sensibilità umana. In questo modo siamo relativamente sicuri che Dio non ci casca, perché Dio non dico che non ci sia, ma se c'è bisogna vederlo con gli occhi della mente, non possiamo vederlo con gli occhi della cosa, e però ci sono tutta una serie, anche qui ci sono tutta una serie di casi ancipiti, borderline, cioè, nel senso che alcuni dei grandi mistici, non dico Santa Teresa, ma anche San Giovanni della Croce, eccetera, eccetera, ci hanno lasciato dei resoconti di cose che loro sostengono essere in qualche maniera filtrati anche a livello dei loro sensi e della loro sensibilità. Ma insomma, se non vogliamo fare, se ci accontentiamo di qualche cosa di più, insomma, di più semplice, lo strumento linguaggio è uno strumento che obiettivamente ha molto a che fare con lo strumento metateoria in logica. Certamente consente di dire tutto quello o tendenzialmente tutto quello che ci potesse capitare nella nostra esperienza, quindi tutto ciò che potesse riempire non solo la nostra singola esperienza, ma complessivamente l'esperienza di tutto il genere umano, passato, presente e forse anche futuro. Ma nello stesso tempo consente di fare una serie di cose contemporaneamente molto più in là, molto più forti. Adesso abbiamo accettato giustamente, tanto per partire, per scominciare, la provocazione di Loretta, però possiamo rapidamente estenderla, perché esiste tutto un intero settore, e neanche mica poco, diciamo, mica trascurabile della produzione linguistica umana, che ha a che fare che con cose che non esistono o con cose che non cadono sotto i sensi dell'interlocutore. Nel Mediterraneo e nell'Occidente, da Gilgamesh in poi, da Gilgamesh ad Omero, a tutta la fiction, tutta la letteratura. Cos'è la letteratura se non una serie di produzioni linguistiche al servizio di ciò che non esiste? Non è mai esistito Alonso Chisciano, detto Don Chisciotte. Non è mai esistito, non l'ha mai visto nessuno, non solo nella sua forma di generoso idalgo, ma neanche di normale gentiluomo della Mancia. È una creazione, se l'ha inventato Miguel de Cervantes. Achille, Ulisse, Ettore, se l'ha inventato Omero o chi per lui. Tutto il mito greco, tutti i miti, e sono tanti, perché tutte le culture hanno creato una quantità enorme, quale più, quale meno, di storie su persone inesistenti. Il briccone divino, il trickster degli indiani, dei pelirossi a Winnebago, che aveva un cazzo che doveva... talmente lungo della girarsi intorno al collo 4 volte per portarlo in giro. Quello e 10.000 altri personaggi di questo genere sono tutti personaggi che non esistono, tutti personaggi inventati, la nostra fantasia, la nostra... Una volta che ci danno in mano questo maledetto, diciamo pure maledetto, perché per certi versi è maledetto, strumento che è il linguaggio, noi siamo in grado non solo di descrivere, dice, ah, cara mia, è così, c'è così deficiente, madonna, c'è rompe così tanti coglioni, non ne possiamo più di queste lezioni, ma non solo potete raccontare ai vostri amici quello che vi è successo davvero, ma potete inventarvi un sacco di cose, e di fatto tutti lo facciamo nella vita, tutti lo inventiamo. Ditemi voi chi non ha mai raccontato una piccola bugia, perché? Perché è impossibile resistere alla tentazione. Perché avere una struttura così potente, così forte, di raddoppiamento del mondo, la cui, come dire, il cui ambito di verifica è così limitato. In certi casi si può verificare quello che mi ha detto, sì, certo, ma non tutti. Se io vi racconto quello che mi è successo il 22 marzo del 1973, voi che cazzo di strumento avete per controllare che io vi dico la verità o non vi dico? Sì, certamente se vi dico che stavo a Kuala Lumpur, probabilmente, ma insomma, cioè è facilissimo mentire. È facilissimo, è anche divertente, è anche bello, è inventarsi delle cose. Non solo gli scrittori lo fanno, tutti noi lo facciamo. Tutti noi lo facciamo, perché noi pensiamo che quando un evento sia passato attraverso il filtro del nostro linguaggio sia rimasto uguale, tale quale, uguale, a che cosa? A che cosa? Noi stessi, non solo io su di voi o voi su di me, ma voi su voi stessi, io su me stesso, noi non siamo in grado di sapere quello che ci è realmente successo se non lo abbiamo inscritto, formalizzato dentro un quadro linguistico. Che noi lo facciamo o no, lo facciamo inconsapevolmente, lo facciamo borbottando fra quelle centinaia di migliaia di neuroni del nostro cervello che fanno questo genere di cose, ma non c'è nulla che sfugga nell'elaborazione della nostra esperienza al filtro del linguaggio. E il filtro del linguaggio quindi è terribilmente eccedente rispetto alla quantità, alla materia prima che io ho disponibile d'amblè, così, del mondo. Va bene, ok, il linguaggio eccede il mondo. Se fosse così, noi comunque, grosso modo, sapremmo cosa fare? Ci potrebbe essere una strategia, una tattica per arginare questa, che non potete dire, ho capito quel linguaggio, però calma, pensate. Se il linguaggio eccedesse il mondo e basta, avremo una possibile, in linea di principio, strategia per arginare il disordine? Se le cose stessero così, che soltanto dal punto di vista del linguaggio sul mondo c'è dell'eccedenza, cioè che il linguaggio eccede il mondo, ma non sappiamo nulla sul resto, tanto per essere il mondo ecceda o no il linguaggio. Ma se il linguaggio eccede solo il mondo, c'è qualche via, anche vaga più o meno, per sanare, per normalizzare la situazione, per renderla ordinata? È chiaro che è disordinata una situazione così, perché è chiaro che è disordinata, no? Certo, senza questo disordine non ci sarebbe la Divina Commedia, voi dite, che bello, non ci sarebbe neanche David Foster Wallace, non ci sarebbe, non so, cosa cazzo leggete, non ci sarebbero neanche le 25, 45 sfumature di grigio, cremisi, eccetera, eccetera, non ci sarebbe nulla, nulla, se non ci fosse questo disordine, non ci sarebbe la storia dell'arte, non ci sarebbe niente, non ci sarebbe la musica neanche. Che anche la musica è qualcosa che senza il linguaggio sembra così distante, lo è certamente, però anche lì poi c'è qualcosa, devo parlarne, devo metterla dentro un sistema che è comunque linguistico. Sì. Quindi, allora, secondo te sì? Cioè, no, sì, anche sì. Va bene, allora, la mia domanda è, se il linguaggio fosse eccedente sul mondo, solo su questa dimensione, cioè solo il linguaggio che eccede sul mondo, sarebbe possibile pensare, non vi dico di dirmi già qual è, ma vi chiedo, sarebbe possibile pensare a una forma di sistemazione di questa cosa, a una riduzione del danno, a una riduzione del disordine, o no? Non è tanto difficile, dai, superate, non autocompatite di sempre. Sì, ad esempio. A te ti piacciono gli esempi? Va bene. No, va bene, meglio così, ma figurati. Prendiamo la figura dell'angelo, sì. Che non esiste, sì. Fondamentalmente. Okay. Però con varie rappresentazioni dipinte nel corso degli anni, okay. È diventata una figura che esiste. Va bene. Io la vedo. Va bene. Posso espungere Lucio Dalla da questa cosa? No? Quello mi sta sul cazzo. No, l'angelo di Dalla mi sta sul cazzo. Altri angeli no. Compensare con tutta una serie di... Compensare come si fa? No, va bene, è ovvio che l'idea è questa. Sì. Bisogna anche andare di categorie. C'è una parte del linguaggio che ha una referenza al mondo, una parte che non ce l'ha. Va bene. Gli hai dato la stura tua, però questo modo è un po' meglio di dirlo. Sì, lui è stato molto bravo. No, che poi si monta la testa. Non dirgli così, che però sì, cioè è un po' più... Allora, siccome abbiamo storicamente degli strumenti all'interno del linguaggio di taglio, sappiamo tagliare delle frasi, di ricontestualizzazione, di ricombinazione, si può pensare di costruire una qualche macchina, poi che ce la facciamo o no è un altro discorso, ma in linea di principio si potrebbe pensare di costruire una macchina che ci permetta di stabilire quali produttori linguistiche hanno un referente e quali non ce l'hanno. Ripeto che sarebbe dura, però gliela diamo questa possibilità, cioè in linea di principio si può pensare che si potrebbe fare, si potrebbe fare, poi magari uno si mette lì e scopre che, però così, d'amblè, di primo acchito, diciamo no, vabbè, si può fare. Effettivamente è quello che molta gente ha tentato di fare, non pensare di aver avuto una cosa così originale. Cioè, il cogito ergo sum di Cartesio, non che oggi ce l'ho con lui, ma insomma ce l'ho, è una macchina di questo tipo. Cioè, il cogito di Cartesio è qualcosa che mette tra parentesi tutto il resto, tutto quello che è stato detto, pensato, eccetera, dice va bene, facciamo pure che tutta la produzione linguistica del mondo sia dalla parte del Cotè Fantastico. È uno coraggioso, sembrerebbe, questo Descartes, no? Dice, gli diamo pure perché tanto, no? Dice, va bene, c'è qualche cosa che non può essere messa dalla parte del Cotè Fantastico, c'è qualcosa che ha una correlazione col mondo, è il cogito. Cogito, ergo, sum. Vedete? Sembrava così, così distante, ma è simile invece. È una macchina ipersemplificata sulla base della quale poi ovviamente il buon Descartes, opportunista, è così, può recuperare gran parte di quello che ha fatto finta di aver buttato via prima, no? Cioè, no, ma io dubito di tutto, non dubito di nulla in realtà di Descartes. Foucault lo prende in castagna nella prima parte della storia della follia, poi dopo Derrida lo difende Cartesio, ma sbaglia. In effetti poi Foucault fa fuori tutti e due in un bellissimo po' scritto che si chiama Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco. Vabbè, chi sta nella storia della follia di Foucault. Allora, sarebbe se l'unica eccedenza possibile fosse quella del linguaggio sul mondo, effettivamente sarebbe possibile pensare di mettere in piedi dei dispositivi, delle macchine, delle procedure per distinguere, sceverare le produzioni linguistiche senza referente dalle produzioni linguistiche con referente. Lasciamo perdere quanto ciò possa essere concretamente difficile, ma in equilibrio potremmo pensare che si possa fare. Ma se per caso noi scoprissimo che questa maledetta eccedenza è una malattia che non è così... soprattutto che non è così limitata ad una cosa specifica, ma che si estende anche nell'altra direzione. Cioè se noi scoprissimo che non solo il linguaggio è eccedente rispetto al mondo, ma anche il mondo è eccedente rispetto al linguaggio, avremmo... Se decidessimo che potremmo essere salvi? Ci sarebbe salvezza? Potremmo trovare un qualche procedimento, una qualche procedura che... Sì. Sì? Ma sei ottimista te. No, va bene, va bene. Potrebbe una nuova estetica, rimettere tutto le nuove... Una nuova estetica. E non quella nuova adesso. Sì, va bene, va bene. Da quando in quale estetica ha rimesso ordine nelle cose del mondo? No, non lo so, l'estetica intendo mi ha sfuggito, qualcosa mi ha sfuggito. Nel senso rimettere, inquadrare in maniera diversa una nuova inquadratura di alcune cose che per noi sono ovvie. Fare delle nuove categorie. Ok, queste categorie sarebbero? Facile ossa. Queste nuove categorie sarebbero prevalentemente linguistiche, prevalentemente fattuali, sarebbero su che... Fattuali e poi... Inizialmente fattuali. Poi col passare del tempo diventerebbero... Inizialmente, non come seconda cosa, inizialmente. Cioè, tu non sei ottimista, sei incosciente. Sì. Cioè... Prima di tutto il fatto, si sa che, se devo darti una brutta notizia. No, non mi dai. Il positivismo è morto 30 anni fa. Questo modo di pensare qua non ha più cittadinanza, cioè sì, un po', ma insomma, no, in qualche programma televisivo, certo. Forse in X Factor, ma non lo so, però io non vedo TV, quindi non so che cosa dirvi. No, nel senso di... Non è un programma dove qualcuno ragiona in qualche modo, in modo molto tradizionale, ma... Prima infatti, ma infatti sono la roba più complicata, tesoro caro. Come ti chiami di nome, non mi ricordo? Michela. Michela, infatti sono la cosa più complicata che c'è, non solo la cosa più semplice. Questo ci hanno illuso quei cretini di positivisti che ma sono i fatti. I fatti sono la cosa più complicata da stabilire. Guarda un po' i... Come diavolo si chiama? Guarda un po' il candelotto lacrimogeno, uscito dal ministero. Sai che è uscito un candelotto, dicono. Dice no, sono fatto, più fatto di così, cioè, questa foto, c'è il video, quei quando lì, sono quelli fatti, no? E su bambina dice, vabbè, i fatti sono quelli, certo. Dove i fatti sono quelli? Dove? I fatti. infatti sono la cosa più misteriosa del mondo. Sono la cosa più arcana, più complicata. Per fare un fatto ci vogliono. Voi che fate, come si chiama qui? Come si chiamano quei programmi multilayer, lì? Photoshop, fate gli strati. Photoshop è la realtà. Quelli sono i fatti. Strato su strato, su strato, su strato, su strato, su strato, su strato, su strato. Poi alla fine forse, dopo 58.328 strati, ne ancora. Ma il fatto non è nulla di automatico, no? Infatti, cioè, un fatto, cioè qualsiasi cosa, uno sternuto di una persona, è una cosa che ha tali e tante componenti complicate, perché intanto l'ha fatto un corpo che è un organismo complicato, che miliardi di... Figuriamoci cosa un fatto, prima i fatti. È impossibile, infatti se ce la facciamo a riformare i fatti, verranno riformati dopo che verranno riformati i concetti. È come la questione di una parola senza referente, no? Di una? Una parola sì, senza referente, iniziare le cose senza niente dal passato o no? Lei dice che c'è. Che cosa? Dovrebbe esistere. Lei dice sostegno morale. Difendere. Per creare ordine lo qui e ora. Comunque. Non è veramente. Non lo so, dillo. Nel senso che la speranza, cioè vorrebbe dire che così male nell'ambito del sistema linguistico. Però dillo qual è, perché sennò non. Dillo qual è questo. Proponevi il fatto di rifondare un sistema che non. Cioè prendere atto che questo scarto c'è. E non è un problema, è che ci sono le differenze. E quindi l'ordine si crea nel momento nel momento in cui si crea il significato. Basta. È un po' complicato da spiegare. Ah, no, non è complicato, bastava aggiungere. Allora, c'è un primo passo da fare. Il primo passo da fare è abbandonare ogni punto di vista sistemico, cioè ogni punto di vista che si situi a livello di tutto il sistema. Non c'è nessun ordine a livello di tutto il sistema, è impossibile trovare ordine a livello del sistema, come è impossibile trovare ordine a livello del cosmo, è impossibile trovare ordine a qualsiasi, tutte le volte che... Come è impossibile trovare una autofondazione dei sistemi logici come prescritto, come dice il sistema di Goethe. Ogni volta che io mi situo ad un livello troppo elevato, troppo generale, troppo onnicomprensivo, ogni speranza di ordine in quel caso è giusto abbandonarla. Ma non dobbiamo compiangere per questo, cioè non è una cosa così grave il fatto che non abbiamo ordine a livello globale, perché in realtà noi questo livello globale non lo sappiamo neanche cos'è, ragazzi. Voi avete mai, io non lo so, ma voi avete mai, non vi è mai venuto da girare i coglioni quando sentite Mario Monti e questi qua che parlano del sistema economico, della macroeconomia. Cos'è la macroeconomia? Macroeconomia. Cioè, è una roba inesistente la macroeconomia, è un livello di astrazione così empirico, così alto, che va benissimo per far vincere le cattedre a quelli come Mario Monti, eccetera, eccetera, poi per diventare Presidente del Consiglio, eccetera, ma non pensavo che corrisponda ad alcunché nella vita reale, non solo delle singole persone, ma neanche dei gruppi sociali. Anche i gruppi sociali non se ne fanno un cazzo della macroeconomia. Non esiste la macroeconomia. Non esiste la propensione al credito, non esiste. Esistono meccanismi, dispositivi, certo, ben concreti, ma non concetti così generali, robe così generali e che valgono per tutto l'universo mondo. Ma a livello locale invece l'ordine si può fare, certo che si può fare l'ordine a livello locale. basta dimenticarsi di questo pseudo livello globale, iper, in cui ha tutte le robe che devono andare bene per, ma dove? Andare bene per tutti quelli che, e chi è che definisce l'ambito di discorso? Oggi noi siamo qua, possiamo, abbiamo instaurato grosso modo qualche vaga regola per cui siamo in grado di parlare tra noi, di interloquire, voi dite qualcosa, io vi rispondo, eccetera, ma siamo qua perché siamo piccoli, già una roba del genere, come dire, espansa ad un livello di tutta la scuola, di tutta Brera, già sarebbe difficile da pensare, non sarebbe mica strano, cioè, non impossibile, si potrebbero fare attività didattiche che comportino anche la presenza di centinaia e forse migliaia di persone, però andrebbero pensate, andrebbero fatte sempre, sarebbe sempre un livello locale, però non sarebbe un livello, non implicherebbe la discesa in campo di concetti generali che devono valere per tutti. Per tutti chi? Per tutti chi? Per tutti noi nella nostra qualità di esseri umani? Ma noi siamo qualcosa nella qualità di esseri umani? Siamo descrivibili, abbiamo una natura? Questo è il problema. Perché tutti questi problemi del linguaggio derivano in fondo da qualche cosa che è ancora più indietro. La macchina universale, il linguaggio come dispositivo universale, è l'appannaggio di un soggetto universale. Ma se il soggetto non è universale, se io abbandono questo terreno, se dichiaro che non mi interessa, se faccio un passo indietro, se dico che mi interessa la specificità di ognuno di voi, e quindi anche la mia specificità, e non la nostra universalità, e non quel poco o tanto che ci accomuna in generale, perché quel poco o tanto che ci accomuna in generale crea, si porta con sé questo, cioè tante cose belle, tante cose carine, io posso con una semplice parolina, dico, ci capiamo, siamo uomini, siamo esseri umani, che belle, sono tutti fratelli, europei, giapponesi, cinesi, extra comunitari, extra coniugali, extra di tutto, e siamo, ma che cos'è questa, che cosa c'è dietro a questa, che prezzo pago? Che prezzo paghiamo per considerarci dei soggetti universali? Paghiamo il prezzo che dobbiamo operare a questo livello. A questo livello talmente enorme, generale, generalista, che poi saltano fuori nella matematica, saltano fuori i paradossi di Frege, di Russell, eccetera, e i teoremi di Gödel. Nella linguistica salta fuori questa continua sfasatura, questa continua oscillazione tra due sistemi entrambi troppo ricchi per poter essere fatti planare l'uno sull'altro e accrocchiati così bene in modo che si corrispondano nell'ordine, tranquillo. No, il linguaggio accederà sempre al mondo e il mondo accederà sempre al linguaggio. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che questo non vuol dire che io non possa usare degli strumenti di ordine, diciamo, locale. Certo, l'ordine locale, gli scienziati e i filosofi che hanno definito questi sistemi come sistemi complessi non lo chiamano ordine, lo chiamano riduzione di complessità, ma è la stessa cosa. Si può sempre ridurre la complessità di un sistema, certo, pagando dei prezzi, certamente. Quello che è impossibile fare è ridurre la complessità del sistema globale. Il sistema globale non si può complessare il sistema globale. O perché il sistema globale non esiste in quanto tale, o perché è una produzione puramente linguistica, o perché è uno pseudo evento, è uno pseudo concetto, che quindi ha delle parti malate in tutte e due le sue eccedenze, sia nella parte di linguaggio che c'è del mondo, sia nella parte di mondo che c'è del linguaggio, non che tutta l'eccedenza sia di per sé, no? Ma se io mi metto a quel livello e voglio parlare di un concetto generale, di un concetto che descrive una situazione tendenzialmente infinita, infinita, usiamo pure, io sono nella stessa situazione esattamente del meno, come dire, palese, di quella dei rapporti matematica-logica. Meno palese perché naturalmente lì le robe sono più nude, sono più al fondo, più facile vedere. Quando ci mettiamo a livello del sistema globale dei comportamenti e del sistema globale dei linguaggi, abbiamo sempre qualcosa che ci maschera. Perché facciamo i furbi, anche se non vogliamo farlo, in realtà lo facciamo, siamo i furbi. Perché ci nascondiamo dietro alla presunta ricchezza di queste eccedenze, no? Che c'è questa ricchezza, certo, ma non può funzionare questa ricchezza se non funziona a livello del... Adesso voglio tornare a bomba, perché ovviamente questo sistema, la linguistica strutturale di De Saussure, l'ipotesi semiologica di De Saussure, ovviamente è un'ipotesi universalista, quindi ha tutti i limiti e tutte le... Tutte le difficoltà, tutte le discrasie, non voglio usare il termine contraddizioni, perché contraddizione c'è una storia particolare, lunga, viene dal marxismo e prima dal marxismo dal hegelismo. Quindi insomma non sono contraddizioni, sono delle difficoltà reali, insomma, sulle quali. Però quello che voglio suggerire è che però sia possibile, come dire, utilizzare anche, perché quando una cosa è comunque fatta bene, insomma, cioè il corso di Saussure è un corso interessante, quindi... al di là delle preferenze ideologiche di De Saussure e quindi anche del suo metodo in generale, c'è una acutezza dello sguardo, dell'analisi, che può non essere totalmente cancellata dalla generalità dell'ipotesi. Allora, io vi inviterò sempre a essere molto cauti nei confronti dell'aspetto generale, generalistico, universalistico delle ipotesi saussuriane. Però vedremo di volta in volta se è possibile utilizzare a scopo locale, io dico a scopo locale perché questo è il mio modo di fare, il mio modo di pensare, non vi posso insegnare, non posso trasmettervi un modo diverso io, perché non ne ho altri, perché non posso fare finta di non essere critico nei confronti del. Vi ripeto che questo non significa che voi siete obbligati a accettare il mio punto di vista, però certamente è più difficile se non li volete accettare, perché evidentemente perché non avete tanto supporto nelle cose che faccio, però io penso che sia più onesto così piuttosto che non io vi do delle cose neutre e poi ognuno fa quello che vuole, perché in realtà non è così, nessuno strumento realmente è neutro, tutta la mia impostazione va verso una impostazione di tipo relativistico, insomma non ci sono cristi, e poi infatti vedrete quando vi racconterò del relativismo. Questo però non vuol dire, non significa che non possano essere utilizzate anche analisi di tipo generalista, universalista, eccessivamente universalista come quelle di tutta la semiotica, eccetera, eccetera, E boh, insomma. Allora, facciamo che per oggi vi do le ultime. Allora, la prima. Allora, per studiare un po' il nostro studio, che ci metteremo ancora, credo, secondo me un paio di volte dovrebbero bastare, allora, quasi tutto il sistema saussuriano, per il modo in cui è stato anche poi esposto, eccetera, eccetera, si struttura su una serie di, chiamiamole, opposizioni distintive, insomma, cioè su coppie di concetti più o meno opposti. La prima, allora, attenzione, queste quelle due robe lì sono due parole francesi, no, perché parole potrebbe sembrare anche italiano. Allora, quindi leggiamole come le leggono i francesi, in questo modo, quindi langue e parole. Allora, langue parole è l'opposizione con la quale si apre il corso, ed è nei primi 3-4 capitoli quella più importante, per come viene esposta, per come gliela fanno esporre questi che hanno costruito il libro, insomma. E indica in generale, poi comunque lo vedremo meglio nelle prossime volte, qui sta la componente universalista. Allora, però sta anche l'interesse del... Allora, per dirlo in breve, insomma, il sistema... Allora, perché non le traduco in italiano? Perché se Lang potrebbe vagamente essere tradotto come lingua, grosso modo funziona, dall'italiano al francese, più o meno potrebbe essere il language inglese, più o meno potrebbe essere lo sprache tedesco, non mi chiedete altre lingue che non so altre, ma il problema è invece parole, perché parole, per chi non sa il francese potrebbe supporre che parole vuole dire parola, invece non vuol dire parola, c'è un'altra parola per dire parola in francese che è mondo. Questo è il termine che indica parola in francese, nel modo di dire. Parole è un uso, cioè si usa parole solo in qualche caso particolare, tipo prendere la parola, eccetera. Allora anche i francesi usano, come dire, parole. Allora noi non possiamo tradurre esattamente la dicotomia saussuriana tra lang e parole come lingua e parola. De Mauro fa una lunga nota sul modo in cui si traducono nelle principali lingue indo-europee e anche non indo-europee dove cazzo l'ho messo? Me l'ero tenuta. Allora, in inglese per esempio language potrebbe andare bene, ma parole per esempio sarebbe speech, cioè in genere, allora, che cosa, allora, però invece di stare a fare lungo, perché poi per ogni lingua c'ha le sue cose, cioè, allora cerchiamo di capire cosa intende Saussure per lang e cosa intende per parole. Allora partiamo dalla parole. La parole è il gesto che fonda tutta l'attività del linguaggio. Non c'è attività linguistica senza la parole. La parole è però un'attività individuale. La parola è individuale. Io parlo diverso da voi. Anche le stesse parole che uso, se astrattamente le parole sono le stesse, sia nel mio italiano parlato che nel mio italiano scritto, le mie parole hanno un suono che non è esattamente il vostro, ognuno di voi ha il suo, ognuno di voi, ogni persona ha un modo di parlare, di parlare o anche di scrivere, no? Di produrre i gesti. Quindi la parola è un gesto, quindi è un atto individuale su cui si fonda il linguaggio. Il linguaggio non è fatto altro che di atti di parola. Sono una infinità continua di atti di parola differenti. Però non ci può essere sapere scientifico. Saussure vuole fondare la linguistica come scienza, eh? Quindi vediamo se ce la fa o no, ma insomma adesso noi pigliamo per buone le sue intenzioni. Per fondare la linguistica come scienza non si può fare una linguistica della parola. Si potrebbe, sarebbe interessante, perché si potrebbe andare a vedere quali sono le determinanti, l'influenza della storia di ognuno, della storia singola, individuale, collettiva, la geografia, il paese, sono tutta una serie di cose. Si potrebbe fare, lui dice, si può fare una linguistica della parola, ma non sarebbe una linguistica che fonda la linguistica come scienza. Per fondare la linguistica come scienza bisogna rivolgersi a un altro diciamo, livello, quello della Lang. Che cos'è la Lang? La Lang non è un atto di parola. A volte, specialmente da quando negli anni 50 alcuni poi linguisti successivamente tentarono di fondare una teoria del linguaggio come atto, come gesto, come atto, si è diffusa poi il modo di dire speech act, atto linguistico, no? Bene, l'atto linguistico è un atto che fa tutto dalla parte della parola, non c'è un atto linguistico, però questa dimensione idiosincratica, frammentata, individuale, individualizzata del, diciamo, linguaggio, si fonda su un'altra dimensione. La dimensione della Lang è una dimensione, diciamo, di astrazione. La Lang è un sistema. La Lang non la parla nessuno, nessuno può parlare la Lang. Perché la Lang non esiste dal punto di vista concreto. Dal punto di vista concreto, quando noi chiamiamo, quando diciamo la lingua italiana, dov'è la lingua italiana? Sì, c'è qualcosa, sì, si può dire, c'è qualcosa di comune, ma la lingua italiana è un insieme di produzioni linguistiche, milioni e milioni, eteroclite, diverse, ognuna con delle sue caratteristiche idiosincratiche. Però tutte quante sono riconoscibili perché si basano, attenzione, si basano su una struttura. Il fatto che si basino su una unica struttura, che è la Lang, che è la dimensione della Lang, però non vuol dire che la Lang abbia le stesse caratteristiche di esistenza della parola. Concretamente esiste solo la parola, non c'è la Lang. La Lang non ha un'esistenza concreta. La Lang è come dire la fisica di Newton o la fisica di Einstein. La fisica di Einstein, si può dire che la fisica di Einstein o quanto la di Newton descrivevano il mondo. Erano e sono un livello di astrazione, ci dicono una parte, spiegano una parte dei comportamenti, per esempio delle grandi masse planetarie, la teoria della relatività generale. Le grandi masse incurvano lo spazio e quindi lo spazio curvo, si creano delle specie di vie privilegiate attraverso le quali le masse più piccole vanno, è quello che un tempo era la forza di attrazione, che non esiste più, sapete benissimo, bene, un pochino ve l'hanno insegnata nelle scuole. Bene, ma è la realtà questa? L'universo funziona davvero così? Quel particolare aspetto dell'universo funziona così? Con la teoria della relatività io posso spiegare certe cose che senza non potrei spiegare, ma non posso spiegare tutto l'universo. Non posso spiegare tutto il comportamento specifico, non posso spiegare quelle piccole nutazioni, quelle piccole oscillazioni dell'asse terrestre, che chissà di dove cazzo escono, ma chi gliel'ha detto di oscillare così, ma chi l'ha fatto, e che sfuggono a ogni teoria generale. alle teorie generali sfugge sempre qualche cosa, per fortuna accidentaccio. Se no saremmo veramente morti, ragazzi. Cioè, saremmo morti. Saremo vivi, ma saremo vivi nazisti. Saremo vivi stalinisti, saremo vivi in qualunque, prigionieri di una qualunque, no? Di una qualunque gabbia di ferro che ci blocca, ci di più, ma non è così. Nessun sistema di conoscenza mi darà mai l'intima verità, l'intima realtà di una cosa. La realtà è inconoscibile, non si può conoscere. Se ne possono conoscere dei pezzettini. Dal punto di vista fisico prende una teoria, da un punto di vista prende un'altra teoria, dal punto di vista sociale prende un'altra teoria. Piccole teorie locali, piccole cose che spiegano i problemi. Bene. Per forza di cose una linguistica doveva porsi a livello della Lang? Non rispondiamo, perché non sappiamo, non siamo nella testa di Saussure. Diciamo che in qualche modo però sì, insomma, se voglio fare, se voglio produrre una teoria a livello di una astrazione, per quanto concreta, di un sistema di rapporti globale complessivo tra gli elementi, quindi quello di un sistema, non posso muovermi che a quel livello lì. È importante però che Saussure abbia riconosciuto che al fondamento di tutto questo non c'è la Lang, c'è la parola, che la Lang in quanto tale, insomma, lui lo sa benissimo, che non ha una esistenza così concreta e così forte come quella che ha la parola. Però certamente, dal suo punto di vista, è l'unico oggetto di sapere possibile. È un oggetto di sapere. Io posso parlare solo della Lang. Perché se dovessi parlare della parola, dovrei parlare della tua parola, della sua parola, della sua parola, della sua, della sua, della mia. Della sua. Cioè, dovrei parlare di tante parole differenti e avrei difficoltà a mettere insieme, a dire, uno può sempre pensare che forse c'era un sistema intermedio, ma lui l'ha fatto, diciamo così. Allora, questa è la prima grande, la prima grande, se noi non capiamo questa, questa, diciamo, questo concetto, insomma, questa distinzione tra la Lang e la parola, ed sarà sempre più complicato di quello che noi pensiamo, perché adesso io ve l'ho detta così, ma vedrete che verranno fuori ogni volta che ne parleremo degli altri caratteristici. Poi, naturalmente, per fare questo bisogna concepire il linguaggio come un sistema di segni, ovviamente a livello della parola. Il modo in cui i segni sono segni, il modo in cui i segni sono segni a livello della parola, lo sono a livello della parola, ma è molto diverso da come lo sono a quelli della Lang. E il concetto forse più complicato da capire, perché è il più equivocato, dice, con il Saussure, è quello che si chiama l'arbitrarietà del segno. È complicato perché i due fanciulli forse non avevano capito bene manco loro. Eh sì, perché questo era, quindi l'hanno messo troppo presto, hanno fatto un po' di casino loro, devo dire. Però adesso con l'aiuto di cose cerchiamo di metterci, perché è importantissimo. Se non si capisce questo concetto dell'arbitrarietà del segno, non si capisce perché questa roba può funzionare come sistema di segni. E soprattutto non si capisce come si può diciamo collegare il livello universale con il livello non universale di un sistema, diciamo, semiotico. Le altre cose che vengono dopo si fa prima, sono più semplici, insomma. In ogni sistema di segni c'è una componente paradigmatica, diciamo, di struttura generale, è una componente sintagmatica, cioè di produzione concreta del segno. In questo modo il paradigma lo mettete a livello della Lang e il sintagma a livello della parola, in questo modo. Ovviamente un segno è nient'altro che una relazione tra un significante e un significato, però attenzione, non confondete il significato con quello detto prima, con il referente. Il significato non sta dalla parte del mondo, sia il segno sta tutto dalla parte del linguaggio, e quindi anche il significante e il significato sono due aspetti diversi del segno, ma sono aspetti del segno, non del mondo. Poi quello che il mondo eventualmente, ecco, le date del Sarage, quindi ci sarà, dal punto di vista sintagmatico, la produzione in serie della verbalità, insomma, è un sistema, uno sfondo paradigmatico, una sorta di struttura dalla quale si vanno a prendere gli elementi diversi per costruire diversi sintagmi. Ci sarà un punto di vista sincronico che vi spiega come il sistema funziona in un dato momento, in una data frizzato, fare una foto, fare un taglio, e invece un punto di vista diacronico, che non vuol dire banalmente la storia dei sistemi, ma la storia delle componenti strutturali, cioè sempre parlando, cioè, di come queste componenti sono state. Allora, ma insomma, io ripeto che la cosa più importante sarà capire che cos'è un segno davvero, capire il principio della vitalità del segno, e poi insomma il resto è più semplice, il resto ci arriviamo tutti, ci sono arrivato anch'io per primo, quindi quando ero più bambino. Va bene, basta. Mercoledì andremo avanti su questa roba qua. Non avete domandato nulla, mi avete solo fatto delle interruzioni oggi, ma non mi avete domandato niente sulle cose della volta scorsa, quindi suppongo.